Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio, sono le 13, 33 minuti e 47 secondi e siete all'ascolto di Radio 24, Italia in controluce, il programma di Radio 24 che parla di cronaca, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. In studio Daniele Biacchessi. Oggi abbiamo preparato per voi un numero unico di Italia in controluce dedicato alle fonti rinnovabili alla luce della recente decisione del Consiglio dei Ministri. Reportage di Cristina Carpinelli. Gli addetti del settore hanno già cominciato a chiamare quello delle rinnovabili il decreto Matrioska. Apri, apri, alla fine trovi la sorpresa. Di buono c'è che sono scomparse alcune proposte di modifica volute dal ministro Romani. Ad esempio scompare il tanto temuto tetto degli 8.000 MW di potenza fotovoltaica incentivata. Scompare, per modo di dire, nel senso che riapparirà a partire dal 1 giugno. Fino ad allora si va avanti con le disposizioni già approvate tempo fa e si concedono le tariffe del terzo conto energia agli impianti che saranno allacciati alla rete elettrica entro il 31 maggio, appunto. Da giugno però si cambia musica e parte un nuovo regime di aiuti che il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente dovranno sistemare per poi partorire una legge entro il 30 aprile 2011. Insomma, per ora a cantare vittoria il ministro dello sviluppo Romani, che dice il decreto sulle rinnovabili consentirà di risparmiare 2 miliardi di euro nel solo solare. Ma gli incentivi non saranno bloccati, continua il ministro, e chi lo dice pronuncia una falsità. Ma quale falsità? Qui il danno è più grave di quanto si voglia vedere, ribatte il segretario generale dell'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia Eolica, Simone Togni. La sostanza è questa, è una grossissima perplessità e contrarietà rispetto a un provvedimento retroattivo. Già parliamo ovviamente del taglio ai certificati verdi, che evidentemente è un taglio retroattivo, e chi sosteneva il contrario e ha sostenuto il contrario, basta leggere l'articolo diciamo che riguarda questo, in cui si dice che da oggi il certificato verde riconosciuto ha un valore del 78% rispetto a quello di ieri, quindi sostenere che non è un taglio è evidentemente una bugia. Il ministro Romani sottolinea poi che rinnovabili e nucleare sono due tecnologie complementari, entrambe necessarie. Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri, spiega Romani, fa due cose: contrasta il caro bollette e premia le imprese serie che investono sulle rinnovabili. Il decreto è devastante per la credibilità del Paese e per l'impatto sulle rinnovabili. Lo dicono gli addetti del settore, questo è quanto ci racconta Simone Togni. Molteplici perplessità di carattere proprio autorizzativo, diciamo di sviluppo dei nuovi impianti rispetto alle procedure di asta per i nuovi impianti che vengono ipotizzate a partire dal 1 gennaio 2013 per le nuove iniziative, verranno definiti con un decreto, quindi anche con un rimando a un provvedimento da emanarsi nei prossimi 6 mesi. E quindi questo bloccherà ulteriormente lo sviluppo delle iniziative in corso, perché è evidente che nessuna banca può finanziare un'iniziativa senza sapere quale sarà il ritorno della stessa. Questo ritardo che speriamo poi si attesti nei 6 mesi previsti, perché purtroppo in Italia sappiamo nel settore delle rinnovabili abbiamo più e più esempi, l'ultimo dei quali è l'emanazione delle linee guida nazionali che sono state emanate ad agosto di quest'anno dopo 7 anni di attesa, cioè dovevano essere emanate dopo 6 mesi, sono uscite dopo 7 anni, quindi un taglio retroattivo inaccettabile rispetto a un provvedimento che va a essere appunto a avere anche dei profitti di illegittimità secondo noi. In più blocca i nuovi investimenti e quindi non consentirà probabilmente di raggiungere gli obiettivi, se non quantomeno nei prossimi anni bloccherà lo sviluppo del settore. Le stesse banche hanno detto con documenti ufficiali che, come noto, le banche hanno dei livelli di affidabilità per i vari paesi e per i vari legislatori, e l'Italia, che già non era, diciamo così, nel top di questa lista, a seguito di questo provvedimento che va a tagliare retroattivamente le incentivazioni, le banche appunto dicono che questo taglio retroattivo del valore dei certificati verdi per impianti che sono già finanziati comporta sicuramente che le banche stesse declasseranno ulteriormente il livello di rating del nostro paese per quanto riguarda l'affidabilità del legislatore, cosa che si ripercuoterà sul finanziamento di infrastrutture in Italia, e quindi testualmente dicono ospedali, strade, infrastrutture energetiche di ogni tipo. Non solo, il decreto sulle rinnovabili penalizza tutti i settori, rischia di far saltare posti di lavoro e far scappare gli investitori stranieri e anche le imprese italiane che ora devono guardare all'estero. Ci racconta così Giovanni Emidi, che gestisce Energy Resource, una società di fotovoltaico. Tutti quanti siamo dell'idea e del parere che c'è stata fatta una cosa all'italiana, come al solito, non concordata e non ben studiata, perché è vero che hanno tolto sulla carta il tetto degli 8.000, però rinviando la decisione della misura della tariffa a giugno, di fatto viene bloccato il settore, ma tutti i clienti con i quali stavamo ragionando si sono bloccati immediatamente, ci hanno chiamato, ci hanno detto lasciate andare quello che state facendo, quindi al di là di quello che pensiamo noi, diciamo così, già c'è stata una risposta molto negativa del mercato, per non dire poi degli stranieri con i quali stiamo ragionando, che si sono spaventati soprattutto sulla retroattività della tariffa sull'eolico, un precedente pericoloso, insomma, no? Dicono ma come? Vabbè, che dire? Niente, bisogna rilanciarsi la palla, già stiamo pensando a nuove cose e a nuove prospettive, però non si può cogliere dall'oggi al domani, no, non si possono dare queste sterzate così brusche e così, così veloci. Però sì, noi stiamo cercando di interpretarlo in questa chiave: Inghilterra, Francia, Turchia, Svizzera, America. Non siamo nati mica ieri, capataz. Non siamo nati mica ieri. Sentendo gli addetti al settore sembra dunque che ci sia da preoccuparsi, ma il ministro Romani rassicura e chiude veloce. A preoccuparsi deve essere solo chi ha usato gli incentivi per speculare e procurarsi facili guadagni. Ma lo scontro sulle rinnovabili è quasi filosofico. Ci racconta così Francesco Bertolini, docente della Bocconi e presidente del Green Management Institute. Pensare di modificare, di togliere questi incentivi lasciando l'intero settore in balia di nuovi obiettivi programmatici non ancora definiti, significa affossare o perlomeno mettere una pesante ipoteca sul futuro del settore, perché nessun imprenditore farà mai degli investimenti di fronte a uno scenario normativo assolutamente non definito, che rischia di essere penalizzante nei confronti di questo settore, e soprattutto stiamo parlando di un settore che richiede investimenti importanti, stiamo parlando di impianti che richiedono milioni di euro, impianti che richiedono finanziamenti da parte del sistema finanziario, e quindi pensare di lasciare l'intero settore che in questi ultimi anni aveva creato occupazione, innovazione, sviluppo, al di là di un sistema di incentivi forse eccessivamente generoso, è comunque un segnale negativo per un paese come l'Italia che non ha risorse, che non ha materie prime, quindi che dipende esclusivamente dai paesi terzi per quanto riguarda la sua bilancia energetica. Quindi al di là del segnale che emerge, è un segnale che va, usando una parola forte, contro la storia. Stiamo vivendo giorni in cui il mondo si sta profondamente ribaltando e la storia anche geopolitica ci imporrà dei cambiamenti, delle scelte che fino a poco tempo fa ci sembravano assurde, irrealizzabili e molto lontane. Anche sulle rinnovabili e sull'energia dovremo fare queste scelte storiche e importanti. Pensare di non capire il contesto epocale che stiamo attraversando, secondo me, è un atteggiamento un po' miope, per usare un eufemismo. Bene, grazie a Cristina Carpinelli per questo reportage dedicato alle fonti rinnovabili alla luce della recente decisione del Consiglio dei Ministri. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, vi ricordo due edizioni, 6.30 e 13.30. Cercateci su Facebook, su Twitter, nel nostro blog sono già apparsi alcuni elementi delle nuove inchieste, delle nuove indagini di Italia in Controluce, che va in radio ma che gira anche su internet, quindi alcuni dei testi che ascoltate in questo programma li potete anche ritrovare nel nostro blog. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.